Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. È realistico uno scenario in cui nel 2050 tutto il fabbisogno di energia sia soddisfatto da fonti rinnovabili? È questa la domanda che ci facciamo stasera, ma soprattutto è la domanda che il WWF ha posto ad Ecofis, un importante istituto di consulenza in materia energetica, e domanda che è sfociata poi in un rapporto diffuso dallo stesso WWF pochi giorni fa. Ne parliamo con Maria Grazia Midulla, che è responsabile clima ed energia del WWF Italia. Buonasera, benvenuta Midulla. Buonasera, salve a tutti. Allora Midulla, intanto stiamo parlando del 2050 e le chiedo di chiarirci in che mondo ci dobbiamo proiettare. Qual è il mondo di riferimento che avete preso? Quanta popolazione, insomma, che stile di vita? No, noi abbiamo dato per scontato che il mondo in un qualche modo sia simile a quello in cui viviamo, quindi che la popolazione continui a crescere, che però larghe fette di popolazione continuino ad accedere all'energia. Quindi escano e anzi, anche dalla povertà, che è un trend, esatto, che c'è comunque. Esatto, e anzi noi diciamo che bisogna darsi come obiettivo quello di dare accesso all'energia a tutti e con queste tecnologie. Questa è l'altra cosa importante, non abbiamo detto non avete fatto conto sulla fusione nucleare, per intenderci, o su cose di questo genere. Siete partiti da... O ne inventeremo di nuove, anche se sappiamo benissimo che negli ultimi anni il tasso di innovazione sulle energie rinnovabili è altissimo. Quali sono gli ingredienti di questo ideale, ipotetico mondo al 100% rinnovabile, e anche quali sono però le principali difficoltà nel realizzarlo? Gli ingredienti sono tutte le tecnologie pulite e rinnovabili di cui che abbiamo a disposizione, con una necessità fortissima di risparmiare e usare meglio l'energia, quindi una componente molto forte, superiore ad altri rapporti che sono stati fatti in passato, data all'efficienza energetica. Se non sbaglio, nel rapporto voi addirittura sostenete che nel 2050 consumeremo il 15% in meno dell'energia che consumiamo oggi. Esatto, è proprio così, perché noi riteniamo che ci sono sia le tecnologie che naturalmente le modificazioni degli stili di vita che ci porteranno a risparmiare energia e a non sprecarla, perché queste sono le due, certo, certo, cose fondamentali. E qui c'è un immenso serbatoio di opportunità. Poi... E poi c'è naturalmente, noi riteniamo che la maggior parte dell'energia, non essendo più bruciare combustibili, vada soddisfatta con attraverso l'energia elettrica, naturalmente energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili. Altrimenti il problema sarebbe amplificato, certo. Bisogna evitare però di fare dei circoli completamente inefficienti, per esempio quello di riscaldarci con l'energia elettrica che già all'origine era calore, invece andare direttamente all'uso del calore attraverso la geotermia. Quindi molto elettrico e utilizzo della geotermia e anche delle pompe di calore per tirar fuori, insomma, calore dall'ambiente per le applicazioni termiche. Mi sembra che invece siate un po' preoccupati sul versante della biomassa. In molti scenari l'uso delle biomasse è francamente, dal nostro punto di vista, sovradimensionato, perché è chiaro che noi abbiamo bisogno anche di terra per produrre del cibo e abbiamo naturalmente, e questo noi siamo il WWF, quindi dobbiamo preservare, certo, assolutamente la biodiversità. Però io ritengo che questo non debba farci fare il partito delle biomasse e il partito delle antibiomasse. Bisogna semplicemente programmare, bisogna programmare bene l'uso della terra, e in questo senso il nostro rapporto dice le energie rinnovabili hanno un impatto, bisogna minimizzarlo e bisogna programmare bene, perché la terra sta diventando sempre più piccola per il genere umano, quindi nella necessità di programmare l'uso delle risorse diventa assolutamente stringente. Una volta si facevano le guerre, ci si espandeva, ma adesso è finito il territorio sul quale espandersi. Esatto. Allora, io però una domanda me la faccio leggendo il vostro rapporto, e cioè se il problema, il grave rischio è quello del cambiamento climatico, io per esempio la penso così, credo che per quanto anche ci siano io molte incertezze, la possibilità di una catastrofe, siccome è realistica, anche se non è certa, è meglio attrezzarsi di conseguenza. Ecco, ma a questo punto perché non dite vale qualunque tecnologia che evita l'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera? Invece non c'è nessun accenno, per esempio, alla CCS, cioè alla cattura e sequestro geologico dell'anidride carbonica. Siete ovviamente contro il nucleare, ma nemmeno prevedete un grande utilizzo, non so, del metano, che tra i vari combustibili fossili è decisamente quello meno inquinante. Non è un po' ideologico, insomma, vi faccio questa domanda, il quadro che presentate? Allora, sul metano noi lo riteniamo il combustibile fossile di transizione, quindi noi abbiamo fatto lo scenario al 2050, laddove la transizione dovrebbe essere completata. Sulla CCS è una tecnologia che è a livello ancora sperimentale, quindi quello che dicevo prima sulle tecnologie vale per la CCS, e stiamo vagliando con pragmatismo ma anche con attenzione le implicazioni ambientali della CCS. Sul nucleare io vorrei dire agli ascoltatori che il dossier, il report, non scaturisce assolutamente dal dibattito italiano sul nucleare. Sì, è un report mondiale, no, chiaro, certo. E la consideriamo una tecnologia molto lunga da installare, come dimostrano tanti casi, eccetera, molto dispendiosa, poco sicura dal punto di vista ambientale, poco sicura dal punto di vista della sicurezza, in un mondo che proprio nella scarsità di risorse rischia di diventare sempre più una polveriera, e quindi a livello mondiale è una tecnologia che francamente non teniamo. Voi vedete, insomma, in fase terminale. Senta, c'è qualcosa che deve cambiare nel nostro stile di vita per poter costruire quel mondo, o possiamo andare avanti, insomma, come siamo abituati? No, io ritengo che noi dobbiamo ripensare al nostro stile di vita pensando a delle migliorie. Il cibo, per esempio, ecco, lo spreco di cibo, l'uso della carne 7 volte a settimana è una cosa che non ha senso né dal punto di vista alimentare né dal punto di vista della salute, perché sappiamo che molti oncologi lo sconsigliano, e neanche dal punto di vista energetico. Grazie Maria Grazia Midulla. Grazie a lei, arrivederci. Anche per stasera è tutto, buon fine settimana, ci risentiamo lunedì.